Con la regista Francesca Fini per parlare di Red, Francesca Fini Solo Show, il vernissage per la mostra da 18 febbraio al 18 marzo. Francesca, ben ritrovata. Tutto Ciao, come va? bene. Allora, raccontiamo un po' intanto cos'è questo Solo Show. Allora, è una mostra che chiaramente è composita perché anche il mio tipo di lavoro è estremamente interdisciplinare, quindi innanzitutto i HER sono gli organizzatori, sono Human Ecosystem Relazioni, Oriana Persico e Salvatore Iaconesi, che sono due personaggi molto conosciuti a Roma, e che stanno aprendo, diciamo, comunque un luogo dedicato all'arte, che è For Changing, in via dei Rutoli, a San Lorenzo. E apriremo, diciamo, con una piccola anticipazione di questo nuovo luogo dedicato all'arte, con questa mia mostra che dura un mese, ed è costituita sostanzialmente da una retrospettiva video, che include i miei video dal 2012 fino ad oggi, chiaramente una selezione scelta di video, Di che videoarte. saranno visibili, sì, saranno visibili dentro dei grandi monitor disseminati in questa location. E poi domani, che è il vernissage, ci sarà anche la proiezione del mio film Ophelia non annega, che tu hai anche avuto modo di recensire già, con la partecipazione e l'introduzione anche di Massimo Canevacci, l'antropologo, che introdurrà il film anche dal punto di vista dell'antropologia, della scienza, dello studio dei simboli che sono presenti nel film. Ci sarà poi un piccolo aperitivo performativo con questi dolci surrealisti che io realizzo, che sono degli autoritratti fatti con lo zucchero e con il cioccolato, che io offro in pasto al pubblico, quindi offro in pasto la mia immagine, accompagnati da un tè alcolico, quindi ci sarà questo particolare aperitivo. E poi ci sarà l'anticipazione dell'apertura, chiaramente, di questo nuovo spazio, che sicuramente diventerà un punto importantissimo di riferimento per l'arte contemporanea alternativa anche a Roma, perché lo spazio è uno spazio alternativo. E l'anticipazione, anche l'anteprima di un film a cui sto lavorando e che mi sta veramente succhiando l'anima, che si chiama Hippopoetes, che è il mio nuovo film, lungometraggio tutto fatto di animazioni, e ci sarà un'anteprima con un trailer e anche delle stampe digitali ricavate da questo film. Senti, una Quindi diciamo. curiosità, che tipo di animazione hai scelto per questo tuo nuovo lavoro? Io tendo sempre, diciamo, comunque a un linguaggio ibrido, quindi è un linguaggio composto da animazioni realizzate manipolando materiale 2D, perché, diciamo, la storia è molto particolare. Potremmo chiamarlo un documentario sperimentale fatto di performance, videoarte, animazione 2D e 3D, ed è la vita, diciamo, racconto, interpreto in maniera poetica, in maniera surrealista, la vita di questa poetessa americana che è vista a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, Annie Lowell, una poetessa e magista del movimento, insomma, fondato da Ezra Pound, un personaggio straordinario. E quindi lo racconto però chiaramente con una narrazione che naturalmente deve rispettare un po' i canoni del documentario, raccontare la vita di questa persona, ma tutta la parte visiva è assolutamente surreale ed è composta da animazioni in vettoriale di materiale 2D, le foto della poetessa, per esempio, completamente rigenerate digitalmente, ritagliate, animate, in un ambiente 3D. Quindi c'è anche il video sarà, diciamo, visibile nella sua pienezza con gli occhialini anaglifici, quelli rossi e blu per Sì, intenderci. sì. Quindi è comunque un linguaggio molto sperimentale, in cui però poi anch'io intervengo perché la mia immagine si sovrappone a quella della poetessa, come se ci fosse una sorta di sorellanza attraverso il tempo tra me e lei. Questo tuo nuovo film ti sei già data delle scadenze per una presentazione pubblica? Io mi sono data una scadenza personale perché sto lavorando oramai da 3 mesi, quindi ho deciso che assolutamente lo devo finire per il 31 marzo. E quindi farò una totale full immersion dopo questa mostra per finirlo e poi cercare di presentarlo. Adesso ancora non so dove, non mi sono organizzata, però sicuramente ci sarà una presentazione pubblica del film, anche perché dura comunque 45 minuti, quindi... Sì. Senti, il tema portante di questa mostra, ossia, ricavandolo dal titolo, questo Red? Sì, il Red ci è venuto in mente perché è il colore dominante di quasi tutti i miei film ed è anche delle performance che faccio dal vivo. Il filo rosso che uso nelle performance, il tema del sangue, il tema del liquido, delle vernici che uso anche nelle mie opere proprio materiche. Ed è un c'è un mio amico che lo chiama il rosso Fini, per dirti, no? Perché non lo paravai questo rosso invece del rosso Ferrario, del rosso Valentino, è associato un po' alle cose che faccio. Quindi la curatrice, che è Arianna Forte, ha deciso di chiamare proprio questa mostra Red e anche declinare anche tutta la parte, diciamo, tutta la grafica della mostra, ma anche il tè al rum, la parte, diciamo, proprio di aperitivo, tutta la confezione della mostra intorno a questo colore. A questo proposito, visto che già si parla di un rosso Fini, volevo chiederti che tonalità ha cromatica. È un rosso ciliegia, un rosso... Perfetto. Comunque il rosso ciliegia, quindi con una predominanza di fucsia in qualche modo, piuttosto che il rosso, quello classico che tende all'arancione. Okay. Non è neanche il rosso del sangue, sostanzialmente è un sangue un po' surreale, diciamo. Bene, bene. Allora, Francesca, ricordiamo la tua mostra, il tuo solo show, Red, Francesca Fini, solo show, dal 18 febbraio in questo nuovo spazio in via dei Rutoli 2 a Roma, fino al 18 marzo. L'ingresso è libero, domani, domenica 18, il vernissage e il tea party. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille. A questo punto diamo in chiusura anche tutti i tuoi riferimenti web. Sì, il mio sito web è francescafini.com. Perfetto. Va bene. Francesca, un abbraccio, a presto. Grazie. Ciao. Ciao.